invocazione che suona nuova davanti al calice contenente le sacre specie. Nuova per i minatori che la cantano, guidati da uno dei loro, il quale studia le pagine di Lorenzo Perosi nel pozzo in cui attende al montacarichi. Una grande passione ne raccomanda il nome alla vostra ammirazione. Antonio Lazzarini da Zompicchia di Codroipo. Rapida scende la sera dicembrina tra i monti. Nel primo pomeriggio le ombre coprono già il paese sopra cui fiammeggiano come un ostensorio le cinque punte. Nella chiesetta di Cave del Predil, questo nome ha sostituito quello di Raibl, più antico e più bello, convengono donne e bimbi. Nel piccolo coro ragazze italiane, slovene, tedesche dicono in lingua friulana le lodi alla Madonna dei Minatori. È un toccante omaggio che assume in quel luogo un alto significato spirituale. Raibl si può godere anche la musica nelle sue espressioni più complesse. L'Orchestra Sinfonica Udinese, ospite attesa e gradita, detiene periodicamente importanti concerti prima di mietere gli applausi nella vicina Carinzia. Lezione di fraternità. In un paese rinnovato nell'aspetto esteriore, non meno che nella compagine dei suoi abitanti, uniti nella solidarietà del lavoro, le destre incrociate come i martelli che costituiscono l'emblema araldico dei minatori. Sull'onda della musica riaffiora così il corale che nasce dal profondo. Santa Barbara, concedi di poter superare felicemente questi monti da cui strappiamo il pane per noi e per i nostri figli. E così sia, minatori di Raibl. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Ottava trasmissione dedicata agli emigrati all'estero. Minatori di Raibl. Testo di Chino Ermacora. Hanno partecipato alla trasmissione l'Orchestra Sinfonica Udinese diretta da Evi. Operai e operaie di Cave del Predil e Don Pietro Tommasino, parroco del paese. Musiche popolari, musiche originali di Lorenzo Perosi, Oreste Rossi ed Ethel Nogara Fellows.